1, 9, e va! Mordo sulla traccia come un pitbull. Lascio la mia traccia come un Bigfoot. Tu resti bianchi in faccia tipo un Nictus. Flow stretto tipo fascia su due Big Boops. Flow fresco rimo freddo, igloo. Big booty tipo Apple, Tim Cook. Il mio stile è meglio tipo iPhone 6. Sono quello vero, tu fai il cosplay. Tutti sono ancora MC tanto. La mia merda alto. Da 10 anni in escalation e non escalate. Tu sei un escargot. Rappresento solo chi da zero sale primo. Chi non si rassegna segna butti al tabellino. 4 giorni al limite di camerino. Ho un muro di sneaker che sembra Berlino. E metti tipo 2 pippotti senti che po. 10 grammi sono tutti 20 perro. Fissa per la pussy tipo Deadpool. Puoi provarci non mi fotti vedi che so. Non è questione di gusti siamo il best crew. Dacci 2 lingotti vedi che so. Tanta roba è una fortezza tipo gay school. Nella vita vera mica Facebook. A Milano carta canta, verba vola. Perciò quando vado in banca la mia merda vola. Perciò brucio questi soldi fatta accetto allora. Perciò che so fatti i soldi fatta che già ancora. Prima dicevo non posso, troppo brutto. Ora che entro nel negozio, compro tutto. Entro in banca che mi chiamano signor Botrugno. Faccio avevo il braccio corto ma che l'occhio lungo. Spaga fra. Spaga fra. E così me la ricrozzo. Sare pare lento pure per i pesi. Quando suono lanza come per il test. Alzo gialle ma famoso Benitez. So la merda bipolare fate che ni West. Tipo sono sotto qualche flusso demoniaco. Ma se passo a padola la mia eminenza. Copi questo flusso ma sembri celiaco. Panni per i tuoi denti fate resistenza. Fate sono super vero. Ho comprato un cutre nero. Sto pippando già lo stereo. Zero fallo giallo. Giallo zero. Macchina tedesca per forza. Spacca come fruste le crauti. Frangi Roma Roma nella puzza degli Audi. Ora a me come Ludovico e in Audi. Oh my god! Due, come due P. Qui c'è merda se non devi bu.